se nella vita è necessario andare oltre, però farlo può essere capace solo chi è forte. Tu che hai tanta convinzione e poche forze, resti un panchinaro zio contro questo bomber. Certe volte nella vita è necessario andare oltre, però farlo può essere capace solo chi è forte. Tu che hai tanta convinzione e poche forze, resti un panchinaro zio contro questo bomber. Alla scena poi mi sono reso conto del mio stesso resoconto di quanto valga la pena, per questo la tiro sua bandiera, augurando la morte nera a chi se deve farlo contro quanto forte rema. Per questo metto cuffie, premo play nel Samsung, squarcio migliaia di veli di Maya, John Arthur. Mentre la noia vingoia come una troia, ci lascio le cuoia ingoiando succo di cactus. Nel mio spazio-tempo non conta che auto hai, anche stavolta ricorda si fotta il tuo auto hype. Volevo fare un dissing a tutti, ma le bollette non le pago mica a forza di insulti. Meno male la figa, la musica, la vita, la pizza rustica, la weed, ogni strumento che la fumica. Me la godo anche se so che è solamente una parentesi, in ogni tuo non luogo invece conta poco esserci. A volte nella vita è necessario andare oltre, però farlo può essere capace solo chi è forte. Tu che hai tanta convinzione e poche forze, resti un panchinaro zio contro questo bomber. Certe volte nella vita è necessario andare oltre, però farlo può essere capace solo chi è forte. Tu che hai tanta convinzione e poche forze, resti un panchinaro zio contro questo bomber. Con i soldi di papà sei bravo a fare campione, ma se non hai sofferto lo sento che manca il cuore. Segui il mio consiglio, dedicati a fare cover, senza la tua posta e pay nel rap game sei game over. Metti pure su Face la foto delle scarpe nuove, tanto fake ci resti zio, cascasse il sole. Compro il tuo disco, poi gli do fuoco con la V-Power, giusto per guardare oltre come Schopenhauer. Io lo chiamavo sempre Schopenhauer. Certe volte nella vita è necessario andare oltre, però farlo può essere capace solo chi è forte. Tu che hai tanta convinzione e poche forze, resti un panchinaro zio contro questo bomber. Certe volte nella vita è necessario andare oltre, però farlo può essere capace solo chi è forte. Tu che hai tanta convinzione e poche forze, resti un panchinaro zio contro questo bomber.